2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 5 gennaio 2013, nuovo anno, nuova puntata, prima puntata del 2013 di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, bentornati o benvenuti. Vi ricordo che il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi anche oggi è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Twitter e su Facebook e poi nel corso della puntata vi ricorderò quelli che sono i nostri indirizzi. Allora, vi annuncio già da questo momento che la prossima settimana si apre, l'abbiamo ricordato anche nelle scorse puntate, ma visto che siamo proprio alla vigilia lo ricordo nuovamente, si apre il Consumer Electronics Show, sicuramente la fiera al mondo più importante, ormai l'unica forse dove vengono presentate vere novità. Non è detto che vengano presentate tutti gli anni le novità, comunque noi ci saremo e quindi la puntata della prossima settimana sarà realizzata da Las Vegas, dove si apre martedì ufficialmente il CES, anche se già a partire dalla giornata di domani ci saranno le prime conferenze stampa e quindi i primi eventuali annunci e quindi le eventuali novità che verranno presentate a Las Vegas da tutte le aziende di tutto il mondo. Naturalmente in primis ci sono i televisori, gli smartphone, i tablet, ma tutto quello che gira attorno. A proposito di smartphone, sicuramente un elemento fondamentale e importante è quello che fa girare e funzionare lo smartphone, cioè il sistema operativo. Allora, partiamo da una notizia di questa settimana, anzi da un paio di notizie di questa settimana, per parlare poi di sistemi operativi. Allora, Canonical, che è l'azienda che ha creato Ubuntu, che è sicuramente la distribuzione più nota e anche direi la più user friendly, la più facile da utilizzare di Linux, cioè un sistema operativo che ha mille rivoli e mille distribuzioni, mille versioni. Allora, Ubuntu è una versione che si può utilizzare su un computer e tutti la sanno utilizzare, molto facile. Allora, Canonical, questa azienda che ha creato Ubuntu, ha annunciato mercoledì che dal 2014, quindi dal prossimo anno, esisterà una versione di Ubuntu anche per smartphone. Ne riparleremo sicuramente, però insomma, abbiamo tempo per discuterne e parlare. Invece, sempre questa settimana, sempre a proposito di sistemi operativi e sempre di Linux, allora Samsung ha detto che da quest'anno, quindi tra qualche mese, comincerà a vendere smartphone con il sistema operativo Tizen. Anche in questo caso, come dicevo, si tratta di un sistema operativo basato su Linux, sviluppato da Intel. Tra l'altro, lo scorso anno Intel, Samsung, NTT Docomo, la giapponese, l'operatore giapponese di telefonia mobile, e anche Vodafone avevano fondato Tizen Association per sviluppare questo sistema operativo. Il tutto e soprattutto per liberarsi da Google e da Android. Perché dopo che Google ha acquistato Motorola e prima o poi dovrà creare prodotti competitivi con Motorola, le altre aziende che utilizzano Android si stanno, se non preoccupando, si stanno occupando della faccenda e dicono: ma se Google comincia a fare concorrenza anche a noi con degli smartphone magari tecnologicamente più avanzati, con delle idee innovative, e visto che tutti sono basati su Android, a questo punto il nostro vantaggio competitivo dov'è? E quindi tutti si stanno attrezzando. Sicuramente Samsung continua con la sua strategia multipiattaforma, perché Samsung ha un po' di tutto, quindi ha Android, ha Windows Phone, ha il proprio sistema operativo Bada e, come dicevo poco fa, ha annunciato che tra qualche mese inizierà a utilizzare anche Tizen. Allora, a questo punto la domanda è: quale spazio c'è per nuovi sistemi operativi che poi devono necessariamente basarsi, e questa è la cosa fondamentale, su un ecosistema, cioè su tutta una serie di servizi, quei servizi che hanno fatto finora il successo di Apple e di Google? Allora, ne parliamo con un nostro ospite, perché dovete sapere che c'è un altro sistema operativo, allora ce ne sono tantissimi, però insomma quelli che contano o comunque che hanno qualche chance sono pochi. Allora, c'è un altro sistema operativo di cui alcuni addetti ai lavori hanno già parlato, se ne sta già parlando, si chiama Sailfish, anche questo basato su Linux ed è sviluppato dalla finlandese Yolla Mobile. Saluto Stefano Mosconi, che è collegato con noi dalla Finlandia via Skype. Stefano Mosconi è CIO, quindi Chief Information Officer, si occupa di tecnologie a Iola Mobile. Benvenuto 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diciamo subito una cosa su Iola Mobile. Voi siete una startup proprio in un mondo che cambia, potremmo dire, molto velocemente, molto vorticosamente, che è quello della telefonia mobile. Siete una startup e producete un sistema operativo, però lascio a te la parola per raccontarci qualche cosa su che cos'è Iola Mobile. Sì, dunque la nostra compagnia Iola è una startup che è nata da un progetto open source che è stato partecipato da Intel e Nokia, che si chiama Migo, e in questo momento noi abbiamo preso il sistema operativo Migo e lo stiamo evolvendo, e in un certo senso stiamo anche rivoluzionando lo stesso sistema operativo con una nuova UI, e il nostro obiettivo non è soltanto quello di fare un sistema operativo, perché il sistema operativo senza un device che è nelle mani dei consumatori, secondo noi, non ha molto senso. Quindi, in primis, siamo uno smartphone manufacturer, ossia facciamo dei telefoni, cioè il nostro primo obiettivo è fare uno smartphone che arrivi nelle mani dei consumatori, e a lato facciamo anche il sistema operativo che pensiamo di dare in licenza ad altri player del settore. Quindi ad altri produttori di smartphone. Diciamo che tu hai già citato... Non soltanto di smartphone, anche di altri settori. Quindi di tablet, diciamo. E qualche cosa del genere. Sì. Insomma, magari piattaforme per automobile, eccetera, eccetera. Sì, insomma, il mercato è molto vasto. Sì, sì. E poi il sistema operativo è molto d'utile in questo senso. Magari poi sul mercato ti farò qualche domanda. Tu hai citato un elemento importante, la UI, cioè la user interface, cioè l'interfaccia utente, che è un po' quello che noi vediamo ed è quello che ci fa interagire poi con il telefono. Hai detto un'altra cosa importante, e questa mi sembra che valga un po' per tutti gli strumenti che hanno una parte hardware e una parte software, un sistema operativo, cioè voi dite: non è tanto importante produrre il sistema operativo, ma dobbiamo produrre un prodotto completo che abbia sia il sistema operativo, ma che sia un qualche cosa che va a finire nelle mani degli utenti, che è un po' uno dei vincoli che fino adesso, ad esempio, ha fermato tutto il mondo open source, a partire da Linux nel mondo dei computer. Voi siete partiti da questo sistema operativo che era stato lanciato e poi abbandonato da Intel e da Nokia. Prima di farti parlare di questo, volevo farti una domanda su la vostra startup. Voi siete in Finlandia. Mi sembra di capire che la crisi di Nokia abbia contribuito alla nascita di alcune startup, perché voi, adesso non so se tutti, ma buona parte delle persone che lavorano a Iola sono uscite da Nokia, quindi diciamo dalla cenere nuovi fiori che crescono. Beh sì, non avresti potuto metterla meglio, insomma. Nokia è una grande azienda tuttora, e il cambio della strategia che è avvenuto all'inizio dell'anno scorso è stato un cambio di strategia che ha generato sicuramente moltissime, diciamo che ha liberato moltissime idee che erano all'interno dell'azienda. Persone come noi, ma ce ne sono tante, abbiamo partecipato giusto il mese scorso, abbiamo partecipato a un evento in cui c'erano più di 100 startup, un evento solamente basato su startup finlandesi, e di idee ce n'erano veramente veramente tante, ed è stato bellissimo vedere che diciamo c'è una vita al di fuori della più grande azienda finlandese di tecnologia comunque. Quindi oggigiorno ci sono tante aziende che fanno giochi qua in Finlandia, ma ci sono tantissime innovazioni, tantissime idee che questo evento ha messo in moto, diciamo. Senti, a proposito del sistema operativo, che tipo di spazio ci può essere in un mercato che è dominato da due grossi player come Apple e Google con Android e tutti i produttori di Android? Perché mi sembra di capire che voi vi poniate più nella linea di Android, cioè un sistema operativo open source aperto a tutti, e chi vuole utilizzarlo lo può utilizzare, oltre ai vostri prodotti, che poi mi direi quando usciranno. Ma che tipo di spazio c'è, e soprattutto perché voi ritenete che il vostro sistema sia migliore rispetto agli altri? A riguardo dello spazio che ci possa essere nel mercato, adesso come adesso viviamo in una situazione di fondamentalmente di duopolio, e il mercato è un po', diciamo, in stallo, perché nessuno dei due grandi giganti ha necessità di innovare. Quindi la storia insegna che nel momento in cui c'è uno stallo nel mercato, c'è sempre spazio per un po' di rivoluzione, un po' di cambiamento, e sicuramente c'è uno spazio per una nicchia o per piccoli player nel mercato. Quindi noi, a seconda delle statistiche e delle analisi che abbiamo fatto, e soprattutto del feedback che abbiamo ricevuto dal mercato stesso dopo che abbiamo fatto l'annuncio, era chiaro che in un momento in cui le cose sono un po' ferme, c'è spazio per qualcosa di nuovo, e c'è spazio per un qualcosa che sia innovativo e che, insomma, renda questo duopolio che smuova un pochetto questo mare. Senti, in che cosa è innovativo e nuovo questo prodotto? Anche perché poi bisogna fare non solo il sistema operativo, ma anche tutto l'ecosistema che sta dietro, quindi ad esempio sistemi per dare spazio in the cloud, sistemi per erogare la posta elettronica, archiviare le foto, eccetera eccetera. Questo sicuramente non è facile, non è semplice. No, non è facile, non è semplice se fai sempre tutto da solo, e questo diciamo è un po' al centro della nostra idea, che il nostro sistema deve essere un sistema inclusivo, non deve essere un sistema esclusivo. La cosa innovativa che noi stiamo tentando di portare innanzitutto parte da quello che ho menzionato prima, che è l'interfaccia utente, ossia la UI, e noi stiamo tentando di, diciamo, rendere l'uso del telefono più divertente, più facile, e, diciamo, richiedere meno step, meno passi dall'utente per passare da un'applicazione all'altra. Una cosa fondamentale su cui stiamo cercando di innovare è esattamente il multitasking. Noi stiamo tentando di, pensiamo di esserci riusciti, di dare un vero multitasking all'utente, ossia nella home view, dove sono tutte le covers dell'application, diamo la possibilità di interagire direttamente con l'applicazione senza che l'utente debba entrare nell'applicazione, applicare un'azione e riuscire l'applicazione e passare a un'altra applicazione. Questa è una delle prime cose. Oltremodo stiamo tentando anche di dare un uso che noi chiamiamo blindfolded, ossia diciamo ad occhi chiusi, in cui attraverso un feedback, una risposta tattile e sonora, l'utente, con un menu che si tira dall'alto, diciamo, lo chiamo pulley menu, l'utente possa, diciamo, a mosca cieca sapere esattamente quali sono le azioni che lui sta eseguendo sul computer. La terza innovazione che la nostra UI propone è quella di una customizzazione che in inglese si chiama theming, cioè applicare un tema al telefono attraverso una semplice scelta di una foto. Quello che facciamo, noi prendiamo i colori della foto, li analizziamo e cambiamo tutto il linguaggio grafico, il linguaggio del colore della UI. Questo è fondamentalmente, e nell'ottica dell'ecosistema, come ho detto inizialmente, tentiamo di essere più che altro inclusivi piuttosto che esclusivi, cioè accogliamo e vogliamo accogliere tutte quelle grandi realtà che esistono oggigiorno nel campo, nello spazio di internet, che già fanno le cose molto bene, e noi semplicemente non insieme. Vediamo. Sì. Quindi, giusto per fare un esempio, cioè voi dite: il sistema di archiviazione in the cloud su internet non lo forniamo noi, ma uno può continuare a utilizzare ad esempio Dropbox. Insomma, questo è uno dei tanti esempi. Inizialmente quello sarà sicuramente. Certo. Senti, quindi la stessa cosa vale ad esempio per il navigatore GPS. Non ne fornite uno voi, ma dite: utilizza quello che vuoi, Waze, per dirne una. Sì, non vogliamo diciamo, chiudere l'utente o forzare l'utente a usare quello che lui non vuole. Sì, ovviamente offriamo delle opzioni di default, ma poi se l'utente vuole usare qualcun altro, insomma, qualcos'altro. Certo. Stefano, ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Parleremo anche di ebook reader del mercato nella seconda parte di 2024. Stiamo parlando di un sistema operativo, di anche un telefono vero e proprio, perché avete sentito dalla voce di Stefano Mosconi, che è CIO, Chief Information Officer, si occupa di tecnologia all'interno di Yola Mobile, questa azienda finlandese che lancerà uno smartphone con un proprio sistema operativo basato su un lavoro fatto tanto tempo fa da Nokia e da Intel. Si chiamava Migo questo sistema operativo, che poi è stato abbandonato. A proposito della data di quando arriveranno questi telefoni, Stefano, quando potremo vedere i primi prodotti sul mercato? È nell'estate del 2013. Quindi tra qualche mese. Pensate che la componente costo sia una componente importante, perché sicuramente tra gli elementi che hanno determinato il successo di Android c'è la componente costo, cioè si trovano degli smartphone a basso costo rispetto ai top di gamma che costano insomma centinaia di euro. Assolutamente, la componente costo è fondamentale nelle scelte del consumatore. C'è anche da dire che è sempre una questione di di servizio offerto a parità di costo. Dipende dalle specifiche del prodotto, dalle specifiche hardware che fanno gran parte del costo, da quanto il software è accattivante e anche da questioni religiose a volte. C'è chi è religioso, un fan religioso di una casa, e chi è un fan religioso di un'altra, e c'è anche gente che non guarda il costo piuttosto di comprare quella cosa, quindi ci sono molte variabili nella scelta, ma sicuramente il costo è un fattore importante. Sì. Quindi pensate che il vostro telefono costerà poco? No, non stiamo targettando un livello troppo basso, perché i margini, quando arrivi a un certo punto troppo basso, non ci sono margini, quindi non stiamo pensando neanche ovviamente di uscire con un telefono di altissima gamma. Cercheremo di fare qualcosa che sia accettabile, come ho detto, dal punto di vista di valori offerti e dal punto di vista di specifiche hardware per l'utente, da giustificare l'acquisto. Se non ci fosse stato Migo, quindi l'investimento iniziale fatto da Intel e da Nokia, sarebbe stato possibile creare Yola? Non con il numero di persone che abbiamo, non nello stretto tempo in cui abbiamo creato questo. Direi che non sarebbe stato possibile assolutamente. Quello che Intel e Nokia hanno fatto, Migo, è stato un investimento che è durato circa 8-10 anni, e in cui sono stati messi tantissimi soldi, risorse umane, idee e sforzi. Quello che noi abbiamo fatto è semplicemente prendere la parte open source di questo progetto e continuarla, soltanto con la potenza di quello che c'era già, cioè con la forza, con il livello a cui è arrivato, possiamo fare quello che stiamo tentando di fare. Ovviamente un'altra parte della storia è il fatto che noi abbiamo fatto prodotti, come hai detto prima, gran parte delle persone che lavorano adesso qui hanno avuto a che fare con la Nokia, ed è una cosa che è nel nostro DNA, cioè fare dei prodotti è una cosa che noi pensiamo di saper fare, perché una cosa è avere il progetto open source che funziona bene, ovviamente ha qualche problemino qui e lì, e un'altra cosa è fare un prodotto che va nelle mani del consumatore. Dall'open source al prodotto c'è diverso lavoro da fare. Bene Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi, un saluto a tutti. E questa era la voce di Stefano Mosconi, che abbiamo raggiunto in Finlandia, lavora Yola Mobile. Dunque, c'è un'altra notizia della settimana molto interessante, molto importante. Soprattutto negli Stati Uniti se ne è parlato molto, si è scritto molto, soprattutto perché l'antitrust americano ha chiuso un'indagine nei confronti di Google, indagine che è durata 20 mesi, concludendo che i servizi di ricerca di Google non violano le regole sulla concorrenza americane. Il tutto era nato da un gruppo di aziende che sono riunite sotto il marchio Fair Search, quindi ricerca equa, Fair Search, che sostengono che Google li penalizzi nel loro business. Cioè loro dicono: quando vai su internet e fai una ricerca, il risultato relativo, quindi i link relativi alle nostre aziende, sono penalizzati, magari su una pagina 2, 3, eccetera, eccetera. Allora, in questo gruppo ci sono grandi aziende, ne cito solamente alcune tra le più famose, ad esempio TripAdvisor, Expedia, Kayak, che è un grande comparatore di voli, viaggi, macchine a noleggio, alberghi, eccetera, eccetera. Poi c'è Microsoft, Nokia e Oracle, giusto per appunto citare le più note. Allora, l'antitrust ha concluso che l'algoritmo di Google funziona in modo non discriminatorio, una cosa che è sicuramente piuttosto complessa da scoprire e da stabilire, visto che quello è un segreto industriale. In ogni caso, al di là della decisione americana, è utile porre attenzione al potere che Google oggi ha nella nostra vita, lo diciamo in maniera molto positiva, non solo nella nostra vita ma anche nel business di molte persone, di molte aziende. È un'azienda che è diventata così grande e così importante che ha quella che noi abbiamo definito, definiremo, una responsabilità sociale. Ne abbiamo parlato e ci spiega che cosa significa questo Nereo Sciutto, che sicuramente è uno dei più importanti esperti di motori di ricerca in Italia e amministratore delegato di Web Ranking. Google in pratica è come se avesse una sorta di responsabilità sociale, nel senso che offre un servizio molto importante che mette in contatto le opinioni, le informazioni, i pareri degli utenti con tutte le persone come noi. In Italia siamo quasi 30 milioni di utenti, come utenti internet, che cercano informazioni, e questa ricerca viene mediata dal motore. Per cui c'è una sorta di, come dicevo prima, di responsabilità quasi sociale, quasi culturale del motore di ricerca nel come svolge il proprio lavoro. Noi lo diamo per scontato, pensiamo che sia una cosa ovvia e su cui non si possa neanche ragionare, ma in realtà quello che il motore fa lo fa sulla base di un modello di business di un'azienda e sulla base di un algoritmo. Per cui in qualche maniera offre un servizio a tutti che è fondamentale per la libera espressione delle proprie opinioni, nel senso che la vera rivoluzione di Google e degli altri motori di ricerca è che hanno reso accessibili tutte le informazioni, tutte le cose che noi utenti scriviamo sulla rete. Prima dei motori di ricerca la pubblicità ci aveva abituato a sentire le aziende parlare e i consumatori ascoltare. Oggi il motore di ricerca rende accessibile nei risultati tanti pareri di consumatori che descrivono i prodotti, tanti pareri di persone che ci avviciniamo alle prossime elezioni politiche, tante persone che commentano il comportamento dei candidati e non solo la voce dei candidati o la voce degli organi di stampa. Per cui troveremo nei risultati quello che scrive in un quotidiano come Sole 24 Ore, quello che scrive un candidato sul proprio sito, ma troveremo anche moltissime opinioni di persone che commentano gli atti, le parole, le cose che vengono dette e fatte dai candidati, o addirittura le cose che danno fastidio a questi candidati, che in realtà non sono sempre positive da raccontare. Quindi Google ha offerto un vantaggio clamoroso a tutto il mondo in ottica di democratizzazione dell'informazione. Non più chi paga parla, ma chiunque parla anche gratis. Quindi indicizza e mette a disposizione tanti risultati anche provenienti da persone che non stanno pagando per far sentire la propria voce. Di contro bisogna sempre preoccuparsi che questa è una grossa responsabilità, perché diventando dominanti in molti paesi non di lingua inglese, come pensiamo non solo l'Italia ma anche la Germania o la Francia, oggi Google è il vero mediatore culturale tra chi cerca e chi racconta qualcosa, e questo è, come dicevo prima, una grossa responsabilità. Che quindi va oltre e forse va scissa dalla guerra commerciale che c'è in atto di questi concorrenti che tentano di diventare grandi e di fare concorrenza a Google, ma con fatica. Poi, secondo loro, soprattutto negli Stati Uniti, Google mette in atto delle azioni per rendere la vita di questi un po' più difficile, ma per il momento, ad esempio, negli Stati Uniti l'antitrust ha detto che questo non è vero. C'è in atto una indagine analoga in Europa e vedremo che cosa dirà poi la Commissione europea. Però le due cose vanno scisse o vanno tenute in considerazione assieme? Di sicuro sono due livelli diversi di lettura, vanno considerate insieme perché a volte quello che noi utenti della strada, persone normali, non riusciamo a vedere è che alcuni cambi di algoritmo che Google fa, che tendono a privilegiare una tipologia di siti rispetto ad altri, a volte nell'arco degli ultimi anni addirittura ha spazzato via intere industrie digitali, come quella della comparazione dei prezzi, che è stata messa in grossa discussione quando Google ha deciso di costruire un proprio comparatore di prezzo e di rendere più vicino all'utente, quindi di mettere fra i propri risultati direttamente i commenti sui prodotti all'interno della pagina dei risultati, quindi impedendo con dei click di raggiungere siti terzi che offrivano questo servizio. Per cui a volte quello che è meglio per l'utente, che è un po' la mission di Google, quella di facilitare l'utente, di renderlo in grado di lavorare, di ottenere risultati prima e meglio, a volte ha un impatto industriale sulla concorrenza in settori, come in questo caso, che sono non necessariamente competitivi di Google, per cui non necessariamente un motore di ricerca contro un altro, ma a volte un motore di ricerca contro l'industria della comparazione dei prezzi o, come abbiamo visto anche di recente, il motore di ricerca contro l'editoria. Quello che fa Google oggi è avere un impatto molto forte su come i contenuti, e quindi in primis gli editori, si trovano o vengono valorizzati all'interno dei propri risultati. Per cui c'è una lotta fra compagnie che accade a un livello che noi facciamo fatica a vedere, che però a volte ha un impatto su quello che noi troviamo nei risultati. Quello che vorrei trasmettere a tutti quelli che ci stanno ascoltando è che dobbiamo sempre tenere in considerazione che queste battaglie che si giocano su altri tavoli, ad esempio tra Microsoft e Google o nel mondo della telefonia mobile per quanto riguarda i contenuti mobile e i brevetti, quindi legati alla tecnologia mobile, avranno un impatto su di noi e potranno in qualche maniera influenzare i risultati che noi troviamo. E questo era Nereo Sciutto, amministratore delegato di Web Ranking. A proposito di Google e di antitrust, vedremo quali saranno le conclusioni della Commissione europea sul comportamento in Europa di Google. Sono 2 anni che Bruxelles indaga e Google rischia una multa da 4 miliardi di dollari. Secondo alcuni esperti americani, le decisioni di Bruxelles saranno un po' più severe rispetto a quelle americane, ma vedremo. In questo mese Google dovrebbe presentare una serie di una documentazione per raggiungere un eventuale accordo. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Vi aspettiamo tra poco per la seconda parte, parleremo di ebook e poi ci saranno anche le nostre digital news tra poco. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Questa è la puntata del 5 gennaio 2013. Dobbiamo come sempre abituarci a dire 2013 perché scappa detto 2012. Vi ricordo che la prossima settimana realizzeremo la nostra puntata da Las Vegas, Consumer Electronics Show, che si apre martedì ufficialmente, ma già da domani sera ci saranno le prime conferenze stampa, quindi con le prime notizie, i primi annunci. Vedremo se questa sarà un'edizione interessante, come molti dicono, come molti prevedono, oppure un'edizione sottotono. Ma direi che, visto che da parecchi mesi non ci sono grandissime novità tecnologiche, forse qualche notizia arriverà da Las Vegas. Non tutti i prodotti che vengono annunciati a Las Vegas poi arrivano sul mercato e non tutti i prodotti arrivano velocemente sul mercato, però sicuramente alcuni trend, alcune cose si riescono a capire. A proposito di trend, nel corso di questa puntata parleremo anche di alcuni trend che vedremo svilupparsi sempre più nel corso di quest'anno, ma anche nei prossimi anni. Tra poco parliamo di ebook, adesso le nostre digital news. Digital news. Iniziamo dalle notizie che riguardano il nostro paese. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera agli operatori telefonici per utilizzare le frequenze sia degli 800 che dei 2600 MHz per i servizi 4G. Soprattutto la banda degli 800 MHz, l'abbiamo detto in altre puntate del 2024, permette una buona copertura all'interno degli edifici e anche a più lungo raggio fuori dalle città. È sicuramente la frequenza più interessante, la più preziosa, ed è per questo che abbiamo sempre detto che fino a qualche settimana fa, ancora fino ad oggi, il 4G non è di fatto ancora partito, perché è vero che gli operatori, soprattutto TIM e Vodafone, Wind non ha ancora annunciato nulla, Tre ha acceso un'antennina in un piccolo paese di provincia nel Lazio, quindi praticamente non ha ancora fatto nulla. Sicuramente con l'apertura e l'accensione degli impianti sugli 800 MHz i giochi inizieranno seriamente. Sempre a proposito del 4G, secondo il Corriere delle Comunicazioni sarebbe vicino un accordo per risolvere il problema delle interferenze tra 4G e gli impianti d'antenna TV del digitale terrestre. Un problema di cui abbiamo parlato ampiamente nel 2024, andate nel nostro archivio per riascoltare una puntata di qualche settimana fa, ed è un problema che riguarda una parte della banda degli 800 MHz. Della risoluzione dei problemi si occuperebbe, secondo queste informazioni, Telecom Italia, che poi si rivarrà sugli operatori che di caso in caso hanno causato l'interferenza nelle case degli italiani dove appunto ci sono queste interferenze, questi problemi. Facebook sta sperimentando in Canada la possibilità di telefonare gratis, naturalmente su internet, ad altri utenti, quindi ai nostri amici su Facebook, grazie al servizio di messaggistica, così come accade già per Skype e Google Plus, ad esempio. Per tutti gli altri utenti di Facebook in tutto il mondo, la nuova app per Apple e Android consente di inviare registrazioni della durata di un minuto. In questo modo Facebook farebbe concorrenza soprattutto a Skype, che ha già 700 milioni di utenti. Andrew Sullivan, un giornalista del The Daily Beast e Newsweek, ha deciso di mettersi in proprio, ha lanciato il proprio blog a pagamento, $19.99 all'anno. Secondo il suo business plan gli servono circa $900.000 all'anno per pagare le 7 persone che lavorano con lui, ma la cosa interessante è che solo dopo 2 giorni dall'annuncio, questa settimana, il numero di abbonati ha superato i 17.000 per quasi $350.000 di raccolta, quindi questo obiettivo potrebbe essere raggiunto. Ultima notizia: non hanno brillato le vendite di computer portatili negli Stati Uniti a Natale. I notebook con il nuovo Windows 8 hanno registrato vendite in calo dell'11% durante le festività natalizie rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, dell'anno precedente, e anche il MacBook di Apple ha registrato una flessione delle vendite del 6%. I dati sono della società NPD e secondo gli esperti di questa società il trend non è dovuto a Windows 8, che sicuramente bene non ha fatto, ma loro dicono al più generale calo delle vendite di PC sostituiti dai tablet. Adesso parliamo di ebook. Quando parliamo di ebook intendiamo sia i libri come contenuto, e così diciamo semplicemente ebook, ma anche gli strumenti che servono per leggere questi libri, ovvero gli ebook reader. Da non confondere con i tablet, stiamo parlando di due tecnologie completamente diverse, anche se le cose si stanno mescolando sempre di più. Il 2012 è stato l'anno, il primo vero anno degli ebook per l'Italia? Chi lo sa? Lo chiediamo e ci facciamo aiutare dal nostro esperto, sicuramente uno dei massimi esperti in Europa di ebook, Antonio Tombolini, che è amministratore delegato nonché fondatore di Simplicissimus Book Farm. Bentornato a 2024. Buongiorno a tutti. Quello che abbiamo appena passato è stato un anno interessante. Esageriamo a dire che è stato forse il primo vero anno per gli ebook in Italia, o comunque se ne è parlato molto? No, esageriamo, e direi esageriamo tranquillamente, nel senso che al di là dei numeri che magari adesso proveremo anche a fare, l'aspetto più significativo è il fatto che anche il mercato italiano ormai vede giocare la partita degli ebook con tutti i player determinanti e significativi. a partire da Amazon, ma per arrivare anche ad Apple, Google, Kobo, oltre a tutti i player italiani come IBS, Feltrinelli, Mondadori e così via. E quindi voglio dire, la partita c'è, la partita è iniziata sul serio. Ricordo che noi parliamo di ebook ad intervalli più o meno regolari, almeno da 5-6 anni, e sicuramente alcuni player del mercato hanno forse atteso un po' troppo a svegliarsi, e pagandone poi le conseguenze. Anche di questo parleremo tra poco. Quanto vale oggi il mercato del libro elettronico sul totale dei libri italiani? Stiamo ancora parlando di una percentuale molto bassa. Ma sì, in termini percentuali credo che sia ragionevole stimare una quota dell'1% per il 2012 sul totale del mercato dei libri. Mercato dei libri, qui parliamo dei cosiddetti trade books, quindi di fiction e non fiction, in Italia assomma circa 1.200.000.000 di euro, e quindi probabilmente il mercato degli ebook in Italia nel 2012 ha cubato sui 12-13 milioni di euro. Che è già un risultato importante, però insomma stiamo ancora parlando di una nicchia piccola. Sì, è un risultato importante per quello che riguarda la tendenza, che è ormai irreversibile, ripeto, non solo per i numeri che sono comunque il quadruplo dei numeri dell'anno precedente, del 2011, ma per il fatto non casuale che con questa crescita così esplosiva c'è insieme l'altro fatto, che è quello dei player importanti globali che sono tutti presenti su questo mercato. A proposito del mercato, una cosa che mi piace spesso sottolineare a 2024 è che i fenomeni come ad esempio quello del libro elettronico che stiamo citando e commentando in questa occasione si affermano, tanto più è facile, semplice, comprensibile l'utilizzo. Siamo ancora in una fase dove mi pare che usare un ebook reader e soprattutto poi scaricare i libri sia, non dico difficile, però ci sono ancora degli aspetti un po' complicati, cioè mentre è facilissimo capire come funziona il libro tradizionale di carta, lo compro, lo posso prestare, lo posso rivendere, eccetera, eccetera, col libro elettronico c'è ancora qualche difficoltà o mi sbaglio? Sì, ci sono ancora oggettivamente troppe difficoltà. La situazione naturalmente va migliorando, la situazione, se vogliamo, è più semplice per i player che riescono a proporre al consumatore una soluzione completa che parte da un device proprietario, che sia un ebook reader o un tablet come i vari Kindle di Amazon, piuttosto che iPad per Apple, piuttosto che i Kobo reader o tablet di nuovo per quello che riguarda Kobo, e quindi partendo da un device poi abbinano a questo un formato proprietario, quindi in qualche modo abbinando allo svantaggio di un sistema tendenzialmente chiuso, però anche i vantaggi di una fluidità, di una semplicità di esperienza d'acquisto e di fruizione. Il problema più grosso ce l'hanno tutti gli altri operatori, quelli che si potrebbero invece valere di un formato standard, se lo ricordo è il formato EPUB, che è lì proprio per consentire la maggiore usabilità, semplicità e interoperabilità tra diversi device dei contenuti, e poi però siamo ancora alle prese col famoso, non so se dire, famigerato problema dei DRM, cioè di questi meccanismi che si propongono in teoria di proteggere i contenuti dalla pirateria, ma che invece non fanno altro che causare danni, nel senso che creano fastidi a chi legittimamente decide di acquistare un ebook. Esatto. Spero che questo possa diventare nel corso del 2013 un tema finalmente sotto i riflettori, e che anche l'editoria possa fare il passo, seppur tardivo, che la musica ha già fatto da tempo sbarazzandosi del DRM. Sì, è incredibile che molti operatori del settore non capiscano e non comprendono, soprattutto considerato il fatto che tutti questi errori sono già stati fatti nel mondo della musica, però prendiamo atto. Questa è stata un po', devo ammettere, anche una mia pia illusione personale e un mio errore. Quando partimmo già nel 2006, cominciando a parlare di ebook in Italia e lavorandoci in concreto, uno dei presupposti per me era che gli editori potessero avvantaggiarsi dell'esperienza già fatta dall'industria musicale. Evidentemente non è così, evidentemente come per i bambini le esperienze bisogna farle direttamente, come si dice, sbatterci un po' il muso prima di... Sì, sì, un tuo errore, diciamo, per dire, cioè avevi creduto che ci fosse molta gente intelligente nel settore, ma purtroppo bisogna sbattere la testa per comprendere. Allora, sicuramente possiamo aspettarci che, nolenti o volenti, i DRM scompariranno nel giro di qualche tempo, o non è mica detto? No, io credo di sì, ecco, adesso non mi troverai in difficoltà a fare previsioni, nel senso che io vorrei sperare che già nel corso di quest'anno ci sono dei segnali interessanti, voglio dire, e la Rowling nel decidere di autopubblicarsi tutta la saga di Harry Potter in formato elettronico, l'ha fatto da sola e ha deciso di farlo senza DRM, e non è esattamente l'ultimo degli autori o l'ultimo dei titoli quanto a popolarità, e quindi voglio sperare che già da quest'anno partano. Ecco, una precisazione: il problema non è solo degli editori, ci sono anche editori che sarebbero già maturi e ben felici di fare a meno dei DRM, il problema è anche degli autori e dei loro agenti, spesso, che spesso per scarsa conoscenza, diciamo pure ignoranza, pensando di tutelare così i loro contenuti, si danno la zappa sui piedi. Quindi sì, spero che anche per quello che riguarda gli autori comincino a comprendere come funziona il mercato digitale e quindi a fare un passo in questa direzione. Continueremo tra poco, tra un minuto. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Stiamo parlando di ebook, un settore che nei prossimi anni vedremo esplodere e soprattutto trasformarsi molto fortemente. Oggi non abbiamo ancora visto nulla di quello che succederà nei prossimi anni. Che cosa ne dicono gli editori? Poi torneremo a parlare di Antonio Tombolini, anche tra l'altro degli editori, di che fine faranno gli editori italiani di fronte a colossi e giganti internazionali che investono anche nel mondo dei libri. Ma che cosa dicono oggi del mercato, quanto investono, quanto ci credono nel mercato dei libri digitali? Alessandra Tedesco ne ha parlato con Sandra Furlan, che è responsabile Mondadori Digital. Io direi che da subito, quando siamo partiti nel 2010, ci abbiamo creduto e creduto tanto. Abbiamo detto subito che rispetto a questa grande evoluzione del mercato, gli editori, il mondo dell'editoria non doveva mettersi sulla difensiva, ma doveva crederci, provare, cavalcarla, sperimentare e assolutamente andare a capire che cosa chiedeva il mercato. Già a partire dall'anno scorso tutte le nostre novità hanno cominciato ad uscire contemporaneamente su carta e su digitale, ma soprattutto abbiamo cominciato ad investire nel recupero del catalogo. Quanto vi preoccupa l'aspetto pirateria? Allora, per quanto riguarda l'aspetto pirateria, è chiaro che la pirateria c'è, però noi pensiamo che la risposta nostra debba essere quella, appunto, di disponibilità dei titoli, di buon servizio, per cui di un servizio facile da usare, e di prezzi, che questo è chiaramente uno degli elementi importanti che devono essere accettati e accettabili per il mercato. Infatti oggi i nostri prezzi massimi, il nostro prezzo più alto è 9,99 euro per quello che riguarda tutto il mondo delle novità, che chiaramente è un mondo che è molto più basso di quello, un prezzo molto più basso di quello della carta, meno del 50% del prezzo della carta. Seguendo un po' queste linee guida, noi pensiamo che si possa in qualche modo evitare la pirateria. Chi è il lettore tipo di ebook? Insomma, lei si è fatta un'idea, visto che è un po' nel settore da parecchio tempo. C'è sicuramente un mondo di lettori giovani che leggono anche molto, i dati che ci stanno tornando ci dicono anche di molti che leggono dallo smartphone. La narrativa rosa, in particolare il mondo di lettura al femminile, usa tantissimo lo smartphone. Noi sappiamo che molte delle vendite del bestseller di quest'anno 50 sfumature, ma anche di tutta la nostra narrativa rosa, va in questo senso. C'è un pubblico sicuramente giovane, tecnologizzato, che riguarda molto le categorie di genere. Il fumetto funziona tantissimo, la narrativa di genere sta funzionando moltissimo, e per cui questo sicuramente è un altro pubblico interessante a cui ci rivolgiamo. Sicuramente oggi la narrativa sta facendo la parte più importante nel mondo del digitale. Mondadori da quest'anno ha un suo e-reader, il Kobo, e anche un suo tablet. Perché avete fatto questa scelta di investire appunto su un vostro e-reader? Sì, più che il nostro leader, questa è una partnership importante che noi abbiamo fatto con Kobo, che è già sugli altri mercati, ha un ruolo importante come produttore di device e nella distribuzione dei device. Questo pensiamo che sia importante, proprio come dicevo prima, un passo importante in questa evoluzione che noi dobbiamo fare proprio per creare le sinergie tra prodotto di carta e prodotto digitale, per poter dare un servizio sempre più completo al nostro lettore. In particolare, sin dall'inizio, come primo passo, l'idea di poter far andare i nostri lettori nelle librerie fisiche. Oggi il Kobo è in vendita in 350 delle nostre librerie, e poter farsi mostrare il device, poterlo provare, farsi aiutare. Sono molto facili da usare, però chiaramente può servire l'aiuto, e ci sono delle persone fisiche che ti possono aiutare. E in più poter scegliere in libreria i libri che ti interessano, poterteli far scaricare sul punto vendita e pagare anche alla cassa. Se non vuoi pagare attraverso la carta di credito su internet, poteva essere una cosa richiesta oggi dal nostro pubblico, e i primi dati ci stanno dando ragione. Per il futuro pensiamo che questo ci possa offrire delle possibilità di sinergie, di ampliamento di operazioni, anche di marketing verso il lettore, tra il fisico e il digitale, tra il libro di carta e il libro digitale. E uno potrebbe domandarsi se tra qualche anno ci saranno ancora le librerie, se la carta ci sarà ancora. Beh, sicuramente il processo di digitalizzazione di un paese, di una popolazione, di una serie di generazioni è un processo molto lungo, ma probabilmente questo avverrà. Abbiamo sentito Sandra Furlan, responsabile Mondadori Digital. Adesso Marcello Vena, responsabile della parte digitale di Rizzoli, sempre intervistato da Alessandra Tedesco. I-book si stanno sviluppando, li stiamo sviluppando. In realtà siamo noi che stiamo cercando di allargare e fare sviluppare il prima possibile questo mercato. Sono assolutamente un pilastro saldo della nostra visione dell'editoria del futuro, per permettere ai lettori di leggere più libri, a più autori di entrare in contatto con più lettori, e perché no, permettere anche ai non lettori, che sono una popolazione molto alta, sono il 55% degli italiani, di incominciare a diventare anch'essi lettori grazie al digitale. Rizzoli tra l'altro ha lanciato prima dell'estate Rizzoli First, cioè pubblicazioni di libri italiani prima in digitale come ebook e poi su cartaceo. Come sta andando questa esperienza? L'esperienza sta andando al di sopra, molto al di là delle nostre più rosee aspettative. Gli autori che abbiamo lanciato hanno venduto in quantità comparabili, addirittura superiori ad alcuni casi di libri cartacei nel fisico, tant'è che ci siamo poi spinti con la pubblicazione dei medesimi autori in carta, e ora abbiamo allargato il progetto Rizzoli First anche alla narrativa straniera e anche alla saggistica. Per insomma una grande casa editrice come Rizzoli, appunto, che si sta dedicando anche agli ebook, quanto è importante difendersi anche dalla pirateria, che inevitabilmente sta interessando i libri digitali? Allora, certamente la pirateria è un tema che tange tutti gli editori che tengono al patrimonio intellettuale, ai diritti dei autori stessi, quindi certamente un fenomeno da monitorare e da contrastare al massimo. Ci sono tante modalità, certamente bisogna anche tenere conto di massimizzare i risultati di contrasto senza penalizzare troppo l'esperienza di lettura dei lettori, perché evidentemente un play solamente difensivo alla fine nel lungo termine è penalizzante. Noi siamo gli unici editori in Italia a mettere a disposizione disposizione dei nostri autori un servizio di scansione completa, globale, tutto il web, che va alla ricerca dei file piratati e li sottrae, li cancella alla fonte, in modo tale che anche se viene piratato, il prodotto viene immediatamente rimosso, e questo di fatto contiene la distribuzione, che è poi l'elemento principale. E questa era la voce di Marcello Vena di Rizzoli. Torniamo da Antonio Tombolini. Senti, non c'è il rischio in questo mercato come in altri? Pensiamo ad esempio agli alberghi. Noi siamo una delle grandi nazioni, una grande destinazione turistica con migliaia di alberghi, ma purtroppo sempre più spesso per prenotare via internet un albergo ci dobbiamo affidare a piattaforme internazionali che non sono basate nel nostro paese, quindi una parte di questo valore se ne esce dai confini nazionali. Allora, tu giustamente ricordavi che sempre più spesso per facilitare l'esperienza d'uso vince il chi offre una catena completa, quindi ti offre il cosiddetto device, quindi il terminale, un tablet o un ebook reader, poi parliamo anche di hardware, una piattaforma, un negozio, ma insomma di esempi ce ne sono tanti, ma non tantissimi. Abbiamo citato Amazon, abbiamo citato Apple, abbiamo citato Google. Ecco, non c'è il rischio che gli italiani facciano una brutta fine? Il rischio c'è, io credo che ci sia ancora un po' di tempo per rimediare a questo. Amazon, che sul mercato degli ebook è certamente il player più forte, più grande in Italia in questo momento, rappresenta già il 50% del mercato. Apple, Google e Kobo credo che insieme possano raggiungere ancora un 10-15% del mercato. Resta pur sempre un buon 30-40% del mercato che potrebbe essere gestito e tutelato anche da player italiani. Questo però comporta una cosa che finora io ho visto poco da parte dei player italiani, comporta, come è ovvio, una decisione di investimento su questo mercato. Non si può pensare che queste quote di mercato possano rimanere in tasca di chi decide soltanto di aspettare senza investire. I player globali che abbiamo citato hanno da anni deciso di destinare specifiche risorse al mercato del digitale. I grandi player dell'editoria italiana mi pare che ancora su questo stiano molto cincischiando. Bisogna investire in qualche modo nell'hardware, non dico direttamente nel produrlo in proprio, ma quantomeno nel fare accordi con produttori importanti. Bisogna investire sui formati, bisogna investire sulla usabilità degli store che poi veicolano e distribuiscono questi formati. Un po' di tempo ancora c'è, se aspettiamo ancora un anno, io temo che questa finestra temporale sia destinata a chiudersi. Qualcuno comunque gli accordi internazionali li ha fatti, ad esempio forse il principale, il più importante è stato Mondadori nel corso del 2012. Sì, Mondadori ha siglato questo accordo con Kobo nel settembre del 2012, al di là delle dichiarazioni un po' trionfalistiche, io credo di poter leggere questo accordo come forse una scelta saggia dal punto di vista interno per il gruppo Mondadori, ma a me pare sostanzialmente una resa per quello che riguarda l'attività distributiva di vendita dei contenuti digitali, perché in fondo l'accordo mi sembra configurarsi come un accordo di distribuzione. Dopo quell'accordo le librerie sia fisiche che online di Mondadori distribuiscono gli ebook reader e i tablet di Kobo e i contenuti di Kobo. Chi è questo Kobo? Ma Kobo è un fenomeno interessante perché è una startup nata all'incirca 3 anni fa in Canada, una piccola azienda quindi per definizione, che poi è cresciuta velocemente e che oggi ha una strategia globale di penetrazione su tutti i mercati e di competizione diretta, niente proprio di meno che con Amazon, anche grazie al fatto che nel frattempo è stata acquisita da un grande gruppo giapponese che è il gruppo Rakuten, che già si confronta con Amazon su diversi mercati su scala globale e quindi a questo punto è dotata anche di risorse finanziarie per poter competere e fare sul serio. Mi sembra una storia paradigmatica perché evidenzia il fatto che in questo periodo ancora ci sono opportunità molto importanti, sempre che, lo ripeto, ci si metta nei confronti del digitale in un'ottica di investimento, senza di questo è tutto illusorio. Allora adesso ho una domanda in canna che è, in un mondo dove i tablet si stanno diffondendo, che senso hanno ancora gli e-book reader? Non è facile rispondere, ne parliamo tra poco. 2024. In un mondo dove la quota di mercato dei tablet, comunque si vendono sempre più tablet e quindi in molte famiglie entrano i tablet, ha ancora un senso e che senso ha un ebook reader? Perché ricordiamo che l'ebook reader può essere considerato un sostituto del libro di carta con una caratteristica molto particolare, che è una lettura molto naturale perché non è retroilluminata, eccetera eccetera. Il tablet è retroilluminato, quindi, ed è anche a colori. Ecco, poi se vuoi aggiungere qualche cosa dal punto di vista tecnico, Antonio, fallo pure. Ma ha ancora senso l'ebook reader? Ma guarda, è un tema interessante, mi permetto di ricordare semplicemente la tecnologia alla base degli ebook reader, che è la tecnologia di inchiostro elettronico e ink. È un vero e proprio inchiostro, che è quindi un fluido compreso tra due strati dello schermo degli ebook reader. Quando viene eccitato elettricamente al cambio pagina stampa un punto e quindi stampa la pagina complessivamente, poi tutto si spegne e ci lascia la possibilità di leggere, come tu giustamente dicevi, senza retroilluminazione, quindi con tutto il comfort della carta stampata, gli occhi non si stancano, se vado fuori al sole non ci sono riflessi e così via. Molti si stanno affrettando a cantare un po' il funerale, il requiem per gli ebook reader, vista la trionfale ascesa dei tablet, che è comunque un dato oggettivo. Io non credo che sia il caso, perché da un lato l'ascesa dei tablet ha anche altri contenuti molto importanti. Io credo che l'ascesa dei tablet sia un fenomeno molto più preoccupante per chi produce netbook e portatili in genere che non per chi produce ebook reader. L'ebook reader ha un suo perché e continuerà ad averlo, proprio in quanto dispositivo specifico e specializzato nel fare al meglio una cosa, che è leggere libri, leggere documenti tendenzialmente fatti di testo e di testo in quantità considerevole. Quindi penso che comunque, come i numeri stanno dimostrando, perché comunque le vendite stanno crescendo, l'ebook reader è destinato a rimanere. Credo anche, ma questo va un po' al di fuori del tema degli ebook, ma credo che sia interessante, credo che anche la tecnologia di inchiostro elettronico sia destinata a crescere molto in aree in cui oggi neanche lo sospettiamo. Non dimentichiamo che la tecnologia di inchiostro elettronico richiede pochissima energia per essere alimentata. L'ebook reader non ha bisogno di ricarica per almeno una settimana o anche di più. E allora immaginiamo certe applicazioni, come ad esempio la segnaletica negli esterni, la cartellonistica informativa negli ambienti esterni o in aeroporti o in stazioni, eccetera eccetera. Ci sono già esperimenti in questa direzione, sono altrettanti campi in cui unire la visibilità confortevole con la praticità della tecnologia che non richiede alimentazione, probabilmente potrà motivare ad applicazioni estremamente interessanti. I temi sono e sarebbero tantissimi. Ti invito nel nostro studio a parlare, magari invitiamo anche qualche altro ospite, del mondo che va al di là dei libri, ma stiamo sempre parlando di contenuti che vengono stampati sulla carta, del mondo dell'editoria, dei quotidiani, dei settimanali, eccetera eccetera, perché anche quello, e immagino che quest'anno vedremo alcune sorprese interessanti, è un mondo che si sta ripensando e anzi deve velocemente ripensarsi. Concludo però facendo un accenno ad altri mercati europei, perché è sempre bene guardare anche quello che accade attorno. Ci sono grosse differenze con altri mercati, e quali mercati tu ritieni siano interessanti, visto che da pochi giorni o comunque in queste settimane cominci a occuparti anche di altri mercati oltre all'Italia, Antonio? Ma sì, effettivamente abbiamo deciso di dedicare il 2013 non più soltanto a consolidare il mercato italiano su cui siamo presenti da anni, ma ad affacciarci finalmente ad altri mercati. Nel decidere dove andare a mettere il naso, abbiamo per ora privilegiato tre paesi su cui testarci inizialmente, che sono precisamente Turchia e Polonia, quindi due paesi che possiamo considerare comunque europei, anche la Turchia direi a tutti gli effetti, e un paese invece del Nord America, che è il Messico. Perché questi tre paesi? Perché tutti e tre presentano una combinazione, secondo me, estremamente interessante di due fattori. Un primo fattore sono economie crescenti, in qualche misura anticicliche rispetto ai trend invece che, ahimè, conosciamo fin troppo bene dell'Europa occidentale e centrale. E dall'altra parte sono paesi in cui il gioco degli ebook, se vogliamo chiamarlo così, è appena agli inizi, è un po' nella stessa fase in cui ci trovavamo noi in Italia, diciamo più o meno 2 o 3 anni fa, ma stanno correndo in maniera estremamente veloce e soprattutto in un contesto molto più consapevole. Partono adesso, ma sanno già di che cosa hanno bisogno, sanno già come funziona la filiera, la catena del valore, la necessità di strutture distributive e così via. E credo che saranno mercati a cui sarà interessante guardare, proprio perché ci sarà un trend di sviluppo ancora più accelerato. Sono mercati dove, tra parentesi, non c'è ancora Amazon. Ovviamente ci si aspetta che arrivi e neanche troppo in là, e con Amazon anche tutti i grandi player. Anche lì sarà una bella palestra per vedere gli editori locali e i gruppi retailer locali come si comporteranno, che tipo di scelte faranno. Questo è interessante anche per dire agli ascoltatori, visto che ogni tanto alcuni mi scrivono giustamente ricordando anche l'aspetto lavorativo, quindi come nuovo impiego della tecnologia e delle rivoluzioni tecnologiche. Questo, Antonio, se non direttamente sul mercato italiano, ma in generale, è un mercato che creerà posti di lavoro, immagino. Assolutamente sì, e devo dire anche sul mercato italiano, nel senso che perlomeno nella nostra strategia andremo ad aprire delle società locali operative in ciascuno di questi paesi, ma lì ci sarà la struttura sostanzialmente di assistenza clienti e commerciale, mentre il cuore tecnologico e di sviluppo software dei nostri servizi sarà comunque, e si va ampliando, sarà comunque in Italia. E quindi al di là di noi comunque è un invito a pensare al fatto che con la transizione al digitale non scompare nessuno dei mestieri dell'editoria, neanche il tipografo, ma tutto deve cambiare, tutto richiede nuove competenze. Questo è un tema che sarebbe pure interessante capire: quanti corsi per l'editoria che ci sono un po' in tutte le università italiane si stanno effettivamente attrezzando a dare una preparazione adeguata, e quanti invece purtroppo restino ancorati a programmi vecchi, sì, che purtroppo poi danno competenze vecchie che servono sempre di meno. Scusa, il tipografo che cosa si mette a fare? Ma guarda, non l'ho detto a caso o per fare effetto. Se noi interpretiamo il tipografo come la figura che in Italia ha avuto un peso fondamentale anche per tutto il mondo, la figura di colui che è in grado di ottimizzare la efficacia di un testo sulla pagina, oggi c'è bisogno di tipografi digitali che sappiano dare qualità all'ebook, qualità che ancora non ha. Sì, cioè uno che impagina bene, insomma. Che impagina bene, che sappia capire cosa significa un font su uno schermo digitale anziché su una carta stampata, che è tutt'altra storia, che possa capire le possibilità, cosa vuol dire una nota a piedi pagina in un tablet, forse non deve essere più a piedi pagina, e così via. Sono tante le tematiche della tipografia digitale, giusto per appunto accennare a questo aspetto, che richiedono competenze che oggi purtroppo l'università non insegna, ma il mercato è già lì e quindi le opportunità ci sono, e come. Grazie ad Antonio Tombolini per essere stato con noi, ti aspettiamo nei nostri studi prossimamente. A presto e ancora gli auguri per un buon anno. È sempre un piacere, auguri a tutti, a presto. Siete all'ascolto di 2024, questa è Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Adesso chiudiamo questa puntata, l'ultimissima parte, l'ultimo slot della nostra trasmissione, con uno sguardo su alcuni trend che dovremo tenere d'occhio nei prossimi anni. Ad esempio, una cosa su cui si dovrà investire, che dovrà migliorare sicuramente, è non tanto l'interfaccia utente delle cose che noi utilizziamo, dal TV alle automobili. A proposito di automobili, ci sono parecchie novità e ne parleremo anche la prossima settimana dal Consumer Electronics Show di Las Vegas, perché si parla e si parlerà molto di automobili, ma dicevo, non deve migliorare, non solo deve migliorare l'interfaccia utente, ma tutta l'esperienza utente, che è un concetto molto più complesso. Ci lavorano parecchie aziende, tutte le aziende ci lavorano, ma ci sono delle aziende che sono specializzate e si occupano quasi esclusivamente di esperienza utente. Ne abbiamo parlato con Gianluca Brugnoli, che è il direttore creativo di Frog, della sede di Frog a Milano. Frog è una multinazionale, 15 sedi in tutto il mondo, si occupa di design evoluto, quindi non solo del design delle cose fisiche, ma anche del design a proposito di esperienza utente, di quello che noi utilizziamo, anche del modo con cui noi facciamo queste cose. Brugnoli insegna anche Interaction Design al Politecnico di Milano. Chi offre un prodotto o un servizio digitale offre un'esperienza utente, la cosa è inscindibile, è così. Quindi il problema è progettare una buona esperienza utente che tenga insieme tutti i pezzi, che siano ben coerenti, che funzionino bene insieme, che sia facile saltare da un canale all'altro, che sia facile tenere tutto il sistema coerente e unito. Quello che noi stiamo vedendo però è che ormai il tema dell'esperienza utente sta passando a un nuovo livello, stiamo vedendo l'emergere di una nuova generazione di esperienze che hanno in comune la caratteristica di essere intelligenti, di essere delle smart experiences. Perché le chiamiamo esperienze intelligenti? Sono esperienze in cui la tecnologia aggiunge qualcosa, impara dall'utente e riesce ad aggiungere qualcosa. Direi il caso più semplice, più comune a cui possiamo pensare di smart experience, forse anche un po' estremo, è la auto di Google che si guida da sola. Quello è un perfetto esempio di smart experience, cioè l'automobile mettendo insieme tutto un set di tecnologie, di hardware, di infrastrutture e anche di capacità di elaborazione dati, il veicolo riesce a guidarsi da solo seguendo gli input minimi dell'utilizzatore. Allora, stiamo facendo un esempio su una cosa che non esiste ancora, no? Perché alcuni potrebbero pensare che esiste già questo prodotto. Stiamo parlando di una prospettiva forse a 10 anni, perché qua bisogna costruire anche un'infrastruttura. Però l'esempio è sicuramente calzante per farci capire che si può aggiungere qualche cosa ad un prodotto che non cambia da decenni, perché le automobili sostanzialmente sono quelle da tanto tempo. Se noi volessimo fare un esempio o alcuni esempi di smart experience che già magari oggi vediamo o che potremmo cominciare a vedere a breve, a cosa possiamo pensare? Facendo un po' di esempi, ci sono un po' di settori in cui stanno emergendo esempi interessanti. Nel mondo dei media e nel mondo della televisione, per esempio, vediamo che si parla tantissimo di smart TV, ma probabilmente il vero salto non è quello della televisione intelligente in quanto tale, ma della televisione che viene estesa dall'utilizzo di dispositivi di second screen, quindi di tablet o di altri accessori che lavorano in tempo reale, in sincronia, in sintonia con quello che avviene sullo schermo. In questo caso però ti faccio una domanda. Qual è il valore aggiunto del second screen? Cioè io guardo un programma televisivo, guardo un film, guardo il telegiornale, perché dovrei usare un secondo schermo che è il tablet o lo smartphone? Allora, qui bisogna fare un passo indietro. Diciamo che la tendenza del soprattutto dei contenuti televisivi è quella che verranno sempre più fruiti in modalità on demand. Il futuro, diciamo, dei contenuti televisivi è quello di essere sempre più fruiti on demand. Questo richiede una complessità di piattaforma, di sistema per navigare dentro gli archivi, navigare dentro gli store di contenuti per cercare i film o per cercare i podcast o per cercare qualsiasi altra cosa, semplicemente un video su YouTube. Hai bisogno di avere una tastiera, hai bisogno di avere uno schermo per fare queste ricerche. E oggettivamente tutte le esperienze che vediamo oggi, se lo fai solo direttamente sul televisore usando il telecomando, l'esperienza è pessima. non funzionano, gli utenti non sono assolutamente interessati a questo tipo di esperienza. Quindi la soluzione è quella di spostare questa complessità su dei dispositivi tipo i tablet, dove è tutto molto più facile, per cui per esempio è quello che YouTube ha lanciato pochi giorni fa. Se tu hai un dispositivo Android e hai installato l'applicazione di YouTube, puoi cercarti un video su YouTube usando il tuo telefono cellulare o il tuo tablet come fai normalmente, e puoi lanciare il play sulla televisione del video e controllare il play del video attraverso l'interfaccia del telefono o del tablet. Quello delle smart experience o experiences è un tema molto interessante, e quindi mi piace questo approfondimento. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Gianluca Brugnoli e continueremo a parlarne anche con altri esempi tra poco. 2024. Riprendiamo, questa è l'ultima parte di 2024, stiamo parlando di quella che abbiamo definito smart experience, cioè l'esperienza di un utente quando utilizziamo un prodotto o un servizio, ma secondo me questo concetto potrebbero e dovrebbero utilizzarlo anche gli artigiani, gli elettricisti, gli idraulici, ma tutta la catena dell'industria dovrebbe comprendere e poi applicare questi concetti di cui stiamo parlando. Chiaramente laddove le tecnologie digitali sono più disponibili, quindi in quei servizi o in quelle aziende che producono cose che in qualche modo hanno a che fare col mondo digitale, certo, e tutto ciò riesce meglio o comunque è fortemente aiutato dalla tecnologia digitale. Stiamo parlando con Gianluca Brugnoli, che è direttore creativo di Frog, della sede di Milano, una delle 15 sedi del mondo di questa azienda multinazionale che si occupa anche di questi temi del design di esperienze. Altri esempi, ad esempio lo shopping, quindi l'esperienza d'acquisto, che dovrà sempre più far conto anche del mondo digitale. Allora, parlare di shopping intelligente forse è ancora un po' grosso, ancora un po' presto, ma sicuramente la direzione è questa. Quello che noi vediamo è che soprattutto nel settore dello shopping, ma è una tendenza generale, è la convergenza tra l'esperienza fisica e l'esperienza digitale. Per un bel po' di anni i due mondi sono rimasti tutto sommato separati, in certi casi addirittura in competizione. Oggi ormai è chiaro a tutti, è chiaro soprattutto ai grossi retailer, che il futuro è quello che mescola l'esperienza fisica del prodotto in negozio, ma anche dello store, quindi tutto quello che è la bellezza di visitare un negozio fisico reale e muoversi tra gli scaffali guardando i prodotti, con la ricchezza informativa, ma anche con la personalizzazione di questa ricchezza informativa che io ottengo per esempio sui canali digitali. Ormai abbiamo le ricerche a livello mondiale, lo dimostrano molto bene, quasi tutte le esperienze di acquisto in store sono precedute da una fase di ricerca, di scambio, di condivisione, o anche semplicemente di raccolta dati svolta via internet. Il famoso infocommerce, da e-commerce e infocommerce, quindi mi informo e poi vado in negozio ad acquistare. Esatto, peraltro è importante far notare, questo è un bel esempio di esperienza utente intelligente, perché fa vedere che innanzitutto è un processo che si svolge attraverso più fasi, è un processo che non si svolge tutto in un colpo solo, ma ha dei momenti, e quindi questi momenti vanno capiti, analizzati, sulla base di questi momenti vanno costruiti applicazioni, piattaforme, vanno messi insieme tutti i componenti in modo tale che passare dal sito web al prodotto acquistato in negozio sia un passaggio, sia il più semplice possibile. Peraltro esistono anche percorsi complessi per cui tu inizi la ricerca sul web, vai in negozio a vedere il prodotto, ma poi torni a casa, lo compri di nuovo però attraverso il web, perché il prezzo è più buono, perché semplicemente ti fidi di comprare da un altro servizio. Tutte queste cose insieme oggi stanno convergendo e si sta lavorando molto in una direzione dove si combinano sistemi di personalizzazione delle carte fedeltà, si combinano i mobile payments, i chioschi in negozio, si mettono insieme tutta una serie di elementi che messi insieme creano un'esperienza d'acquisto unica. L'obiettivo naturalmente è di fidelizzare il cliente, tenerlo il più possibile fedele alla catena, all'esperienza d'acquisto, e questo avviene proprio usando i dispositivi digitali. Fammi un esempio magari anche spostato un po' in là nel futuro, di quello che potrebbe succedere, magari tecnologicamente è possibile anche oggi, ma quando parliamo di queste rivoluzioni non basta solo la tecnologia, ma bisogna essere... bisogna farlo legalmente, bisogna cambiare anche i modelli di business, bisogna anche che la gente poi cominci a utilizzare questi servizi. Ecco, però un'esperienza d'acquisto intelligente, moderna, basata magari sugli smartphone e anche sul mondo fisico, come potrebbe essere? Allora, le tecnologie oggi in realtà ci sono già tutte, non è assolutamente un problema tecnologico, è solo un problema di mettere insieme tutti i punti e costruire per bene la piattaforma. Un'esperienza intelligente è semplicemente quella per cui io entro in un negozio con lo smartphone, appunto, per esempio sull'etichetta del prezzo e ricevo informazioni dettagliate su quel prodotto. Per esempio, voglio comprare un TV e leggo tutte le caratteristiche, eventualmente le recensioni di quel prodotto semplicemente leggendo un'etichetta intelligente, e in tempo reale il sistema magari mi segnala dei prodotti suggeriti, dei prodotti consigliati. Se sei interessato a questo, magari ti interessa anche quest'altro. Oppure il sistema ti fa delle promozioni in tempo reale, sa chi sei, sa che sei in quel negozio, sa dove ti trovi, perché ormai tutte queste tecnologie, tutte queste esperienze si basano, come dicevo anche prima, sull'uso di sensori di posizione e tutte le informazioni che il sistema ha imparato e accumulato su di te, quindi in grado di farti promozioni, in grado di farti raccomandazioni, suggerimenti, segnalarti i correlati, eventuali accessori e magari di confezionarti un pacchetto di vendita al momento nel negozio, un po' come oggi avviene quando tu compri su Amazon online. E questo invece succederà anche offline, quindi nel negozio fisico. Siamo quanto lontani da questa prospettiva? No, siamo molto vicini. Ripeto, la tecnologia c'è già, ci sono già le piattaforme, esistono già, diciamo, alcuni pezzi sono già funzionanti in giro per il mondo, ci sono già applicazioni, alcune si possono scaricare tranquillamente dai vari application store per i dispositivi per smartphone, sia per Android che per iOS, e probabilmente non sono ancora complete. Il grosso salto avverrà quando un grosso retailer, una grossa catena crederà in modo completo, in modo pieno a questa innovazione e la implementerà, ma secondo me è solo questione di poco. Un'altra cosa che voi state analizzando e secondo me è una prospettiva per i prossimi anni molto interessante, che già cominciamo a vedere ma vedremo sempre più spesso nei prossimi anni, è la frammentazione dei servizi o comunque la spacchettizzazione dei servizi. Noi siamo stati abituati per molto tempo a servizi che venivano impacchettati tutti assieme. Oggi invece voi vedete che grazie alla rivoluzione digitale le cose si stanno spacchettizzando. Possiamo spiegare che cosa intendete? È l'evoluzione dei servizi digitali. Nel momento in cui i vecchi servizi diventano digitali, si assiste a un processo in cui il servizio viene spacchettato in componenti più piccoli, in modi più piccoli, quindi tendenzialmente si semplifica. Perché succede questo? Perché l'innovazione fondamentale è che l'obiettivo vuole portare il cliente dentro la piattaforma, quindi si cerca di creare la minima barriera d'ingresso per attirare il cliente nella piattaforma, nell'ecosistema. Dopodiché, una volta che il cliente è stato acquisito, si lavora per upgrade continui, si lavora per promozioni, upsell e upgrade continui. L'esempio in assoluto più lampante di questo modello è quello delle linee aeree low cost, che partono, allettano, attivano il cliente con delle tariffe molto, molto basse e anche con dei servizi molto semplificati, e però se tu vuoi qualcosa in più, piano pianino il bagaglio, un posto più comodo, il cibo e altri servizi diventano pacchetti che si aggiungono e arrivano a comporre il costo finale. Questo processo lì è molto evidente, stanno avvenendo cose molto simili anche in settori assolutamente impensabili come quello per esempio dei servizi finanziari. C'è una forte tendenza dello spacchettamento, per esempio del conto corrente, del servizio finanziario in sé. Questo è un aspetto peraltro che fa parte di una tendenza più complessiva che vede i servizi finanziari diventare fondersi sempre di più nelle esperienze quotidiane di vita degli utenti. I servizi finanziari sono destinati a diventare esperienze intelligenti per definizione, anche perché loro sanno tutto di te. La banca, la tua banca sa chi sei, dove compri, quali sono le tue abitudini di vita, come usi la carta di credito e via dicendo. Quindi sulla base di queste informazioni sono in grado di in qualche modo sparire come banca intesa come la filiale, il posto dove vai a gestire i tuoi soldi, ma diventare invece l'assistente intelligente che compare ogni volta che fai una transazione. E così concludiamo questa puntata. Abbiamo sicuramente accennato ad alcuni temi di cui parleremo anche nel corso dei prossimi mesi. È tutto, io sono Enrico Pagliarini, vi aspetto anche la prossima settimana. Saremo a Las Vegas, dove inizia martedì il Consumer Electronics Show. Grazie a Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica. Il nostro indirizzo è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra 7 giorni. 2024.